America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. A man named Ahmed Abu Katala. Beh, un successo dell'amministrazione Obama, credo ce ne fosse bisogno. Abbiamo avuto notizia ieri che le forze speciali americane hanno catturato uno dei presunti capi del gruppo che ha organizzato l'attacco contro il consolato americano di Bengasi l'11 settembre 2012 in Libia. Lo ricorderete, una tragedia, un gravissimo disastro. Morirono 4 americani, tra cui l'ambasciatore Christopher Stevens, e una macchia questa nella storia degli Stati Uniti, perché ci sono state polemiche in congresso, e il congresso, soprattutto i repubblicani, dicono che non ci fu attenzione nei confronti di questo consolato, che si dovevano trasferire delle truppe, che si potevano salvare delle vite umane. E una vicenda politica, perché Hillary Clinton era a capo del Dipartimento di Stato e dunque lei è considerata responsabile di questa mancanza. Insomma, è una partita molto complessa, una partita aperta che, come dire, arriva a una piccola chiusura con l'arresto di Ahmed Abul Katala. Dall'Iraq, beh, c'è stato un breve colloquio ieri tra Stati Uniti e Iran ai margini degli incontri di Vienna, degli incontri del 5+1, per discutere dell'ISIS, lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, e di questa ipotetica alleanza fra Washington e Teheran per intervenire in territorio iracheno e arginare l'avanzata di queste truppe sunnite ispirate da Al-Qaeda. Ucraina, c'è stata un'esplosione di un gasdotto ieri, Uregondoi Zgardo Pomari, nella regione di Poltava, e il governo ucraino dice che è stato un atto terroristico. Una situazione dal punto di vista dello scacchiere internazionale complessa, davvero preoccupante, e vorrei riflettere un pochettino su queste dinamiche. Ho con me ai microfoni di America 24 una vecchia conoscenza della nostra trasmissione, un vecchio amico, Maurizio Molinari, che è stato corrispondente per molti anni della stampa degli Stati Uniti, che adesso è corrispondente sempre per la stampa dal Medio Oriente, nel senso allargato del termine. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Possiamo cercare di capire, Maurizio, soprattutto su Iraq, che cosa sta capitando? L'ISIS è in movimento da tempo, gli Stati Uniti controllano la situazione da tempo. Sapevano dell'esistenza di questo movimento, eppure la dimensione della violenza dell'azione di questo ISIS non era conosciuta. Ecco, puoi dirci te dal campo che cosa vedi? Sei molto preoccupato? ISIS non è solamente una formazione jihadista fuoriuscita da Al-Qaeda. ISIS raccoglie lo scontento delle comunità sunnite nel nord dell'Iraq. A combattere nei suoi ranghi sono molti veterani dell'esercito di Saddam Hussein e soprattutto alcune tribù sunnite del nord dell'Iraq che potevano scegliere fra la fedeltà al governo centrale di Baghdad e i miliziani dell'ISIS sono andate per i miliziani dell'ISIS. Quindi noi ci troviamo di fronte alla genesi potenziale di una rivolta della comunità sunnita nel nord. Ancora non è una rivolta generalizzata dei sunniti, che equivalgono a un terzo degli abitanti dell'Iraq, ma sicuramente non è una milizia jihadista a sé stante. Ecco Maurizio, cerchiamo di ricostruire un pochino. Eravamo insieme l'anno scorso al vertice di San Pietroburgo, quando ci fu il colpo di scena che portò Barack Obama a fare un'inversione di 180 gradi sulla politica siriana con l'accordo con Putin. Secondo te quello è stato un punto di svolta chiave in questa storia? Guarda, ma io devo dirti che in questi mesi, da quando ho lasciato gli Stati Uniti e sono a Gerusalemme, ho girato in più paesi, in Egitto, in Giordania, i palestinesi, gli israeliani. Putin è percepito come il leader vincente, aggressivo, determinato, difende i propri alleati, ha successo nelle operazioni che fa, dalla difesa di Assad in Siria alla difesa dei russofoni in Crimea, e la percezione quindi che combaciante è quella di un'America passiva, in ritirata, incapace di ostacolare i disegni di Putin. Quindi non c'è dubbio che da quanto avvenne a San Pietroburgo ad avvantaggiarsene da un punto di vista tattico in Medio Oriente è stato Putin. Ecco, altro elemento: guerra civile in Ucraina, guerra civile in Iraq, guerra civile in Siria. Ecco, cosa ci dice questo dell'ordine internazionale che dovevamo avere, come dire, stabile nel post-guerra fredda? Ma questa instabilità alla quale assistiamo è frutto della debolezza dell'America. L'America resta l'unica grande superpotenza del nostro pianeta. Se l'America ha una guida debole, il mondo ne risente, scivola verso confusione, caos, instabilità e guerre endemiche. Sta quindi all'America rimettere ordine. L'interrogativo, visto dalle strade del Medio Oriente, se sarà in grado di farlo questo presidente o se dovremo aspettare il prossimo. Ed è una domanda feroce, perché da qui al prossimo presidente mancano 30 mesi. E 30 mesi di debolezza dell'America sulla scena internazionale fanno davvero tremare i polsi. Ecco, un'ultima cosa, Maurizio. Sempre fonti autorevoli della Casa Bianca ci hanno detto che il fronte debole, il secondo fronte debole per l'America dopo l'Ucraina e il fronte debole della NATO era il Mediterraneo e dunque l'Italia e dunque il Meridione, per varie ragioni, migrazioni, flussi migratori illegali sempre in crescita, rischi di terrorismo e questa situazione stabilizzante in Libia. È un'operazione di successo la cattura di Ahmed Abu Qatala? Assolutamente sì, e credo che coincida con quanto ti è stato detto dalle fonti autorevoli della Casa Bianca. La principale preoccupazione è la Libia, il rischio che la Libia degeneri in uno scenario siriano. Le speranze che questo non avvenga sono legate al colpo di Stato non dichiarato da parte del generale Haftar, sostenuto di fatto dal nuovo presidente egiziano al-Sisi, nel tentativo di mettere ordine soprattutto in Cirenaica in mano alle milizie jihadiste, ma saranno le prossime settimane a dire se gli Stati Uniti dopo questa operazione Blitz saranno in grado in qualche maniera di contribuire a una maggiore stabilità. E ultimi due punti, flussi migratori, è chiaro che con una destabilizzazione in Iraq, in Siria, nel Nord Africa ci saranno sempre più flussi di popolazione di immigrati clandestini e illegali, rischio anche del terrorismo. Senti che questi due problemi sono molto reali per il nostro paese? Sì, nel senso che gli arresti operati negli ultimi mesi in alcuni paesi europei, in Francia, in Belgio, in maniera minore in Italia, ma sicuramente nei Balcani, descrivono una sovrapposizione fra flussi immigratori e rotte del terrorismo. Ci sono stati ad esempio due terroristi islamici fermati in Italia che segnatamente erano arrivati attraverso le rotte dei trafficanti di uomini. Eccoci alla canzone del giorno, il nuovo single dei Maroon 5 è in testa alla classifica di Billboard, appena uscito, boom, balzo in testa. E dunque, riflettendo su questi intrecci geopolitici di cui abbiamo parlato, non posso che proporvi dei Maroon 5, Maps. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.